E allora, eccoci di nuovo in voce, stravolgiamo ancora il palinsesto perché abbiamo subito invece in diretta Marco dei Cobas di Pomigliano. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, allora venerdì inizia questa importante iniziativa di lotta dei cassi integrati di Pomigliano d'Arco e diciamo... una scadenza importante preannunciata da un periodo anche piuttosto turbolento, perché nel corso di tutta l'estate insomma a Pomigliano si è lottato e anche in maniera tosta, dura, e quindi io ti lascio la parola, Marco, così ci presenti un po' questa iniziativa che diciamo casca e viene effettuata proprio nel giorno in cui ci sono di nuovo i sabati lavorativi a Pomigliano. Senti, a parte che i sabati lavorativi non mi risulta ancora, perché stamattina abbiamo avuto la comunicazione che quelli che hanno lavorato per tutto questo tempo a Pomigliano, che hanno fatto la panda dal 7 ottobre fino all'11, ci sarà una grossa cassa integrazione, inizierà cassa integrazione anche per quelli che hanno lavorato finora in questa vecchia panda che ormai si sta invecchiando e non c'è un piano industriale. Quindi quello che noi sappiamo, l'unica verità, che sono anni che stiamo chiedendo il piano industriale a Pomigliano d'Arco, e questo piano industriale non esce fuori. Noi sappiamo che il piano industriale prevede tra i 20 e i 25 anni di lavoro, quindi praticamente non per i prossimi 10-15 anni, 20 anni non ci sarà lavoro a Pomigliano d'Arco. Quindi la rabbia è tanta, ti possiamo dire che nel 27 ci faremo sentire fuori Pomigliano con i picchetti, che verranno compagni da tutta l'Italia, verranno a protestare con noi. Con la lotta ci sarà ovviamente non soltanto gli operai, ma ci saranno anche gli studenti, ci saranno i disoccupati, i precari, che da Pomigliano deve partire, questa grossa protesta che diciamo basta alla cassa integrazione, basta alla mobilità, basta a questa crisi che vogliono fare pagare per forza a noi questi ministri, questi capitalisti. È una crisi che noi non vogliamo pagare, perché con 800 euro al mese, che sono 5 anni che ci viviamo con 800 euro al mese, ed è matematicamente impossibile viverci, e qua non parliamo di una persona sola, qua parliamo di 3.000 famiglie, 3.000 operai, 3.000 uomini che ormai siamo alle soglie della disperazione, che non sappiamo più dove aggrapparci. Quindi noi il 27 lanciamo questo picchetto, sarà l'inizio di una lunga stagione di lotta, perché noi è il momento che vogliamo delle risposte, esigiamo come uomini, come operai, esigiamo delle risposte da questi personaggi che per anni hanno usufruito di fondi pubblici, che per anni hanno usufruito di denaro nostro con false speranze, false promesse, con nuovi impianti, nuove cose, ma alla fine è quasi 5 anni che non esce niente di buono dalla politica, dal sindacato. Il sindacato innanzitutto che sono anni che comunque ha fatto devastare quello che erano i nostri diritti, quello che era il diritto al lavoro, il primo diritto, quello che è il diritto alla salute. Qua ci sono compagni che non ce la fanno più, ci sono compagni lavoratori che hanno paura di reagire. Qua ci sta una repressione nelle fabbriche, c'è repressione in piazza, c'è repressione nelle nostre case, che ovviamente le famiglie si devastano, si separano, cioè ormai si sta arrivando veramente che non sappiamo più come farci ascoltare, come farci sentire veramente i nostri problemi qua a Pomigliano. Oggi abbiamo avuto la conferma, ti ripeto, della cassa integrazione del 7 ottobre, e a novembre ci sarà altra cassa integrazione, a Natale ci sarà un grande ponte di Natale pure per quegli operai che fino a mo' hanno lavorato, che si sentivano garantiti, e oggi si troveranno anche loro in cassa integrazione con un piano industriale che non c'è, ti ripeto. Quindi una politica fallita, un sindacato fallito, siamo rimasti soli, senza tutela sindacale, politica, perché poi i fatti parlano chiaro. Oggi chi può dire la verità? Oggi chi dice la verità è chi vive veramente il problema sulla propria pelle, e specialmente in questi anni chi non ha accettato compromessi con l'azienda, chi non ha accettato compromessi con il sindacato, chi non ha fatto concertazioni in questi anni che portavano a devastare quella che era la nostra dignità. Quindi noi come comitato di lotta cassi integrati e licenziati Fiat, che noi dobbiamo parlare anche oltre dei cassi integrati, dei licenziati politici, che oggi in Italia ne sono tantissimi, quei licenziati politici che sui posti di lavoro hanno cercato di tutelare non solo di tutelare loro stessi, ma tutelare i lavoratori sui posti di lavoro. Ritmi allucinanti, infortuni, morte bianche, di cosa vogliamo parlare? Scusa, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare che ci hanno tolto il futuro? Di cosa vogliamo parlare? Siamo rimasti a 47 anni, 48 anni, ci troveremo senza una pensione, che ovviamente col passare degli anni ci saranno altre modifiche, perché dicono che la vita si è allungata, quindi noi possiamo, viviamo di più, dobbiamo lavorare di più, ma io non credo che la vita sia allungata di chi vive precariamente, di chi vive precariamente di cassa integrazione, ci vive di affitto, ci vive di problemi, non credo che la nostra vita sia allungata. Io penso che la vita sia allungata di altri personaggi che a 90 anni mi sembrano i giovanotti di 40-50 anni. Certamente non è la nostra vita che si è allungata, la vita che si è allungata è la loro, non la nostra. La nostra si sta accorciando, sinceramente. Quindi hanno tolto il futuro a noi, oggi lo vogliono togliere ai nostri figli, però ai nostri figli il futuro non glielo facciamo togliere. Vogliono togliere il diritto allo studio, vogliono togliere il diritto alla sanità, di cosa vogliamo parlare? Che di chi vive veramente i problemi sulla propria pelle, dove sono, che veramente ti dico che chi lo vive sulla propria pelle può parlare oggi dei problemi che oggi si sono in Italia. E poi un'Italia che comunque alla fine io credo che è una nazione la nostra bellissima, una nazione che siamo ricchi di cultura, siamo ricchi di agricoltura, siamo una nazione ricchissima dove questa ricchezza non hanno la volontà di sfruttare, non hanno la volontà di aiutarci, di risolvere i problemi, non c'è volontà politica, non c'è volontà sindacale. Di cosa vogliamo parlare? Che a noi come cassi integrali che ci hanno trasferito a Nola, noi, io faccio parte dei 316 dei confinati a Nola, i famosi 316, sì, che voi tutti avete sentito parlare, che dal primo giorno che siamo entrati in quel reparto di 60 metri quadri di qua, anche un reparto grandissimo, che non abbiamo mai lavorato in quel reparto, mai messo mano, siamo sempre, perché sembravamo degli zombie, quindi praticamente l'obiettivo era quello di isolare noi 316 dai quei 5.000 6.000 lavoratori che restavano in fabbrica. Quindi è stata anche un'azione comunque anticostituzionale, portandoci distanti dalla fabbrica, perché noi eravamo quello zoccolo duro, quella parte forte della fabbrica. Quindi noi siamo stati i primi a essere condannati dalla Fiat, condannati dagli stessi sindacati, perché 316 lavoratori non si buttano fuori dalla sera alla mattina, ma 316 lavoratori sono stati selezionati, sono stati studiati di quelli là, come buttarli fuori. Infatti da quando siamo andati via dalla fabbrica, che è stato nel lontano 2008, nell'aprile 2008, è successo che la fabbrica di Pomigliano è diventata un campo di concentramento dove i lavoratori non possono parlare, non possono stare insieme a discutere, dove i sindacalisti fanno da spie, dove invece di aiutare i lavoratori fanno i nomita, dove i lavoratori che danno più fastidio continuano a fare la loro repressione. Quindi il sindacato a Pomigliano, l'Alfa di Pomigliano, la Fiat di Pomigliano non esiste più. Sappiamo che i lavoratori sono impauriti, hanno paura di reagire, ma noi sappiamo tutto, abbiamo il contatto con tantissimi lavoratori che non hanno il coraggio di esporsi, sinceramente. Quindi di cosa vogliamo parlare ancora? Vogliamo parlare che dopo 25 anni di fabbrica, a 47-48 anni si trovano lavoratori in mezzo a una strada, senza una pensione e senza un futuro. Quindi io credo e sono convinto che è legittimo oggi protestare, è un nostro diritto protestare per il diritto al lavoro, come è il nostro diritto chiedere il futuro per i nostri figli. Quindi noi oggi faremo una conferenza stampa all'ingresso 2, dove lanciamo lo sciopero, il picchetto per il 27. Poi sicuramente subito non avremo risposte, ma noi esigiamo risposte subito, chiare. Devono dirci chiaro che intenzioni hanno, quale fine faremo, perché poi alla fine una macchina vecchia che a Pomigliano, la Panda è vecchia, ma quegli altri 2.000 lavoratori che fine faranno? Cioè qui ci sono bugie, ci stanno falsità, non si parla chiaro, non si dice niente, non si sta parlando del necessario, dell'importante che è il lavoro. Quindi stanno devastando le nostre vite. Quello che ti posso dire, noi come comitato di lotta continueremo le nostre iniziative, continueremo a prenderci la nostra visibilità e chiediamo di essere ascoltati, perché poi a un certo punto la rabbia scatta, la polizia ovviamente usa la loro violenza, come noi la nostra violenza, la nostra bocca. L'unica cosa che possiamo fare e metterci davanti col nostro corpo a viso scoperto è a testa alta, ti posso dire questo. Quindi i veri terroristi non sono, non siamo noi che protestiamo, il terrorismo vero è quello che fanno le nostre famiglie, i nostri compagni, i nostri fratelli. Capisci cosa voglio dire? Non so se certo, certo, Marco, ti ho proprio lasciato così parlare, esprimerti, perché credo che nelle tue parole si riconoscano in molti che sono all'ascolto questa mattina, e a partire dalle prime cose che hai detto, che rappresentano così, per modo di dire, una novità, nel senso che a giugno tutti i quotidiani erano ben contenti invece di mettere i titoli a più colonne, per cui a Pomigliano erano rientrati tutti a lavorare, 2000 e passa operai, non c'era nessun problema, le cose stavano andando, a parte i cassi integrati a gonfie vele. Invece tu mi confermi del fatto che non c'è pace e tranquillità nemmeno per chi fino adesso ha avuto... No, quale pace e tranquillità, caro lavoratore, quale pace e tranquillità? Non stiamo né pace né tranquillità, ma non perché noi non lo vogliamo, perché è il sistema che non vuole la nostra pace, è il sistema che non vuole la nostra tranquillità, perché io credo che dignitosamente qualsiasi uomo deve ribellarsi alla dittatura, alla schiavitù che oggi questo capitalismo sfrenato sta provocando alle nostre famiglie. Quindi in pace non ci sta, non soltanto a Napoli, in Campania, ma io credo che tutta l'Italia, che purtroppo sta attraversando un periodo, tutto il mondo del lavoro proletario che sta attraversando un periodo bruttissimo, sono i fatti che parlano, internet è chiaro, forse la televisione, forse, anzi sono convinto che la televisione tutta la verità non la dice. Per anni artisti che per anni artisti hanno lanciato denunce, grandi artisti hanno lanciato denunce per quello che stava succedendo, ma nemmeno i grandi artisti, nemmeno con la musica si riesce a cambiare quello che sta succedendo, nemmeno la musica, nemmeno gli artisti, nemmeno persone politiche, filosofi o quello che tu vuoi stanno riuscendo a cambiare queste cose. Quindi il sistema, questa politica si sta mettendo al di sopra di tutto, un marchione che chiama lo Stato per far manganellare lavoratori che chiedono diritto al lavoro e dicono basta alla cassa integrazione. Come fai a esserci pace? Dimmi tu, come fai a stare in pace se sei una persona onesta e sei abituato a vivere onestamente? Chi vive onestamente, ti garantisco che chi vive onestamente è dura. Se non sei abituato a rubare, a dire frottole, a vendere la carne umana, se non sei abituato a questo, la vita è dura. Purtroppo oggi chi sta andando avanti, vediamo, ci sono chi vanno avanti, ci sono ministri che per anni non partecipano, non stanno in Parlamento, senatori che per anni non si presentano, politici che continuano a prendere i loro 20.000, 18.000, quanto cazzo sono di milioni di euro che prendono all'anno, continuano a rubare, mentre qua ci sono famiglie, e ti garantisco che se veramente, forse tu lo sai meglio di me, che se veramente tu stai sul tessuto sociale, vivi la vita tutti i giorni con gente così e senti che stanno male, allora vedi che veramente le cose non cambiano. Pensi che ieri mi è arrivata una tassa della spazzatura di 200 euro, 197 euro, pagato in tre volte, no? Tu dici, ma io su 800 euro, ma ogni settimana dovevo prendere 97 euro, se dai sopra i miei 800 euro e pagare la spazzatura che poi viviamo, una campagna che è devastata, che è inquinata, avvelenata, io devo pagare la tassa della spazzatura. Ovviamente la pago perché io sono uno stipendiato, sulla mia busta paga, si vanno a prendere i soldi anche se non pago. Devo pagare anche la spazzatura, anche la tassa della spazzatura, quando poi tengo campagne che è inquinata, avvelenata, irrespirabile, continua a devastare, a disboscare, a tagliare ancora alberi sui territori dove ci stanno alberi, cioè continuano a fare quello che vogliono, cioè si continua a devastare, cioè non lo so dove si vuole arrivare qua in Italia, dove vogliono arrivare i politici di destra e di sinistra, dove vogliono arrivare i sindacati, dove la Camusso dice diminuiamo le tasse sulle buste paghe. Ma forse la Camusso si chiede che se ha diminuito le tasse sulle buste paghe ha risolto il problema. I problemi, oltre alle tasse sulle buste paghe, ne sono tantissimi altri. Quello di poter mantenere un figlio a scuola, quello di avere una moglie diplomata, intelligente, chiusa in casa, che non può rispettare la propria intelligenza perché non c'è sta lavoro. Perché se va a lavorare la vogliono conviene di 500 e 400 euro al mese, per 160, per 170 ore al mese. E questo ti dico, non è soltanto il mio problema, è il problema di tutti quanti. Capisci cosa voglio dire? Di cosa vogliamo parlare? Quando il 27 facciamo i picchetti, che ci saranno compagni che verranno tutta l'Italia e sicuramente avremo un'aggressione della polizia. Sicuramente la polizia verrà organizzata. Sicuramente la polizia verrà a manganellare a chi dice ho diritto al lavoro e ho diritto alla famiglia, che ne siamo sicuri che sarà questa l'iniziativa, sicuramente saranno questi i segnali che manderà Macchione nello Stato. Quindi noi continueremo a stare a viso scoperto e a testa alta, perché ti ripeto, ci vive onestamente, è duro andare avanti, non siamo abituati, non siamo nati per tuffare, non siamo nati per rubare, non siamo nati per andare contro di noi stessi. Quindi cosa ti devo dire, di cosa vogliamo parlare, di cosa vogliamo discutere? Senti, che tra pochi mesi forse perdiamo anche la cassa integrazione, perché non siamo nemmeno convinti che ce la continueranno a pagare dopo 5 anni. Cosa ti vogliamo parlare, dimmi tu. Senti, al di là di un rilancio, tu hai parlato di piano industriale che all'orizzonte proprio non si vede, ma con attive in questo momento, la possibilità di una turnazione in grado di, diciamo, convogliare tutti quelli che lavoravano prima per la Pomigliano, c'è o no questa possibilità? Ci sarebbe la possibilità di una turnazione più razionale per farvi lavorare un po' tutti? Allora, noi abbiamo visto di lavorare tutto, meno lavoro, con meno lavoro, e pagare a tutti praticamente lavorando meno, lavorare, come si dice, lavorare meno, lavorare tutti. Ok, vogliono far lavorare meno a tutti qua, però come fa la Fiomme che vuole lanciare il contratto di solidarietà e non lo spiega, e non spiega ai lavoratori che cos'è il contratto di solidarietà? Allora questo mi puzza di imbroglio, mi puzza di tranello, perché noi sappiamo bene che cos'è il contratto di solidarietà che oggi la FIOM di Landini sta lanciando, che è la diminuzione del salario a parità di orario di lavoro. Ma non si risolvono così i problemi, perché io non posso lavorare con meno salario, sempre con 160 euro al mese, perché partiamo al ribasso, che invece di andare avanti andiamo indietro. Come può la FIOM lanciare un contratto di solidarietà, lavorare tutti col contratto di solidarietà? Che facciamo, gli accordi a ribasso? Non possiamo fare gli accordi a ribasso. Lavorare meno, lavorare tutti, ma non lavorare con sottosalariati, ma lavorare, già sottosalariati ci siamo e già non ce la facciamo. Figurati se si accettano contratti di solidarietà che la FIOM sta lanciando, una FIOM che fa le finte contrapposizioni, che non parla chiaro, un primo sindacato in Italia che sembra che stia dalla parte dei lavoratori. Non mi sembra che sta dalla parte dei lavoratori questa FIOM, non mi sembra. Ci sono compagni della FIOM che io rispetto, stimo, che anche loro hanno le loro, diciamo, nelle loro segreterie hanno le loro, diciamo, contrapposizioni, ci provano, ma da soli non ci riescono perché il sistema è molto più grande. Quindi per il momento stamattina abbiamo avuto la conferma della cassa integrazione di questi qua che lavorano alla Panda fino a ottobre, una settimana, che poi nove. Cioè, non si parla, cioè, i sindacati CGL, CISL, UIL, CMIC, UCL, che dicono che possono lavorare tutti quanti, ma a rotazione, innanzitutto noi dicevamo a rotazione, ma nemmeno della rotazione più si parla. Cioè, non si parla della rotazione, ma il momento in cui, scusami, si dice, cioè, il momento in cui non si parla di piano industriale, lo ripeto per la seconda volta, vuol dire che non c'è lavoro, non c'è rotazione, cioè, non lo so, io sono stanco di essere preso in giro da questi sindacalisti che oggi a Pomigliano dicono che noi abbiamo le fette di carne di prosciutto sugli occhi, non vogliamo vedere, ma forse non possono vedere chi non è capace di vedere, ma noi che abbiamo, diciamo, abbiamo la capacità di vedere, di ascoltare e di sentire, siamo stanchi di essere presi in giro, siamo stanchi perché noi possiamo fare la differenza, il comitato può fare la differenza oggi in Italia, possiamo fare la differenza a Pomigliano. Lavoro non ce n'è, piano industriale non c'è, siamo stanchi di dire la rotazione, oppure siamo stanchi di dire sì, c'è il lavoro, non c'è niente, non ci sta niente. Questi sono i fatti. Io sto dicendo, non sto dicendo una bugia, lo sanno benissimo, anche per chi mi sta ascoltando lo sa benissimo che a Pomigliano non c'è piano industriale. È inutile che continuano a fregare i lavoratori, è inutile che dicono sì, ci sta piano industriale, ci sta una nuova macchina. Dove sta una macchina? Quando io sono entrato nel 1990 in fabbrica facevamo quattro vetture facevamo, non so se mi spiego, ne eravamo 20.000 con tutto l'indotto. Cioè, c'era il piano industriale, quello era un piano industriale, oggi è finito, non c'è, non c'è solo piano industriale, basta, devono finirla di venderci in giro. Che si pensione che vogliono portare addirittura a 70 anni, ma c'è, di cosa vogliamo parlare? Che dobbiamo lavorare fino a 70 anni? Di cosa vogliamo? Se lavoriamo, se lavoreremo a un certo punto. Cioè, non lo so, scusa un attimo, già mi sto parlando. Capisci cosa voglio dire? Cioè, certo, io non lo so. Certo. Forse mi sto prolungando. No, va bene. Sono tutte, diciamo, considerazioni che ovviamente, oltre a farci capire meglio qual è la situazione materiale, reale che state vivendo, insomma, poi immagino che possano aiutare anche magari altri lavoratori, altri compagni che sono all'ascolto, non so, o cercare di organizzarsi per solidarizzare con la vostra lotta, o comunque insomma, magari... speriamo, se non li fermano, se c'è qualcuno che... Però noi rivendichiamo l'autonomia perché oggi solo con l'autonomia di classe e proletaria possiamo forse avere delle risposte, solo con l'autonomia. Ma io non credo che ci sono persone politiche sindacalmente che vogliono stare dalla nostra, non li vedo, non ci sono, certo, ma sono anni, certo, che non ci sono. Io ti dico la verità, ti parlo di coscienza sinceramente. Io non vedo, ho 47 anni, quasi 48 anni, in questi anni vedo soltanto anni e anni di lotta, anni di scontri senza nessuna risposta. Vedo soltanto che disoccupati che gli tolgono il sussidio, vedo operai, compagni in cassa integrazione che vanno in mobilità. Senti, questa vostra iniziativa praticamente di fatto così apre un po' le ostilità, mi viene da dire, rispetto poi a un ottobre che si preannuncia di temperature un po' più alte. Insomma, ci sono tutta una serie di iniziative in una settimana che va dal 12 al 19. Certamente questa vostra volontà politica, insomma, di condurre avanti la lotta attraverso i picchetti dei cassi integrati, dei licenziati, è comunque un, diciamo così, il primo input, no? il primo segnale che si lancia ancor prima dell'ottobre, che però va nella direzione, no, di... Certo che comunque il 27 lanciamo il 18 e 19 ottobre, perché deve essere una stagione di lotta, perché è il momento di dare delle risposte a tutti i nostri governanti, e parlo anche a livello europeo, che devono ascoltare l'urlo proprio della precarietà globale, perché è impossibile che ci sono milioni di paperoni oggi in questo mondo dove praticamente pensano solo a loro stessi, soltanto a distruggere quello che è la libertà, l'umanizzazione proprio nostra. Ormai c'è la disumanizzazione proprio in questo mondo del lavoro, la disumanizzazione totale. È cambiato l'epoca, ma comunque siamo rimasti schiavi che remiamo ancora col battito dei tamburi, siamo rimasti ancora così. E perfetto, vogliono farci arrivare così, capisci? Quindi vorrei dire tante cose, a volte non so nemmeno da dove incominciare per dirti veramente tante cose da dire, ci sono tantissime cose da dire, non basterebbe una semplice telefonata così per far capire veramente quello che sta succedendo, per dire la verità più che altro. La verità, perché poi ovviamente, come dicevo, c'è la verità rivoluzionaria, e la verità fa male a molte persone, politicamente e sindacalmente fa male la verità. Però ci non ha vissuto di compromessi nella vita, non ha accettato compromessi, anzi per noi è una ricchezza dire la verità. A noi ci basta questo, la nostra ricchezza, la verità, capisci? Assolutamente. Senti Marco, noi sicuramente venerdì mattina da questi microfoni, da queste frequenze, gli 87 e 900, cercheremo insomma di tenere aggiornato chi ci ascolta. Il 27 alle 3 del mattino staremo già agli ingressi. Voi siete lì già dalle prime luci dell'alba, anche prima. Noi magari cominceremo a chiamarvi, a entrare in contatto con la vostra lotta, a partire dalla mattina. Certo. La speranza che non sarà il momento proprio di fuoco. Vediamo un po' come vanno le cose, ma insomma cercheremo di organizzarci per il meglio. Avviso scoperto, guarda. D'accordo. Ti dico. Okay, a venerdì, vediamo. Ciao Marco, ciao. E buon lavoro. Ciao. Buon lavoro, ciao. Dentro me. Yeah, yeah. About this island. I think I